la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori, questo giovedì 10 di aprile, 16.35, primi 28 secondi, siamo qua in diretta dagli studi Radio 24 di Milano e vado subito al punto della nostra trasmissione per vedere se volete chiamarci all'800240024 o mandarci gli sms al 349-238-6666 per dirci come la pensate. Ci occupiamo di uno dei tantissimi punti toccati, ribaditi e anzi modificati anche nell'accoppiata del DEF, documento economico finanziario, del piano nazionale riforme, dal Presidente del Consiglio l'altro ieri sera, e riguarda il nodo delle retribuzioni dei dirigenti pubblici, perché dopo tanto parlarne si inizia a capire dove concretamente, al di là delle tante volte ripetuto annuncio di tagliare gli eccessi di retribuzione dei dirigenti pubblici, un conto è dirlo, altro conto è capire poi davvero in che cosa consisterà questa misura. Ricordo a tutti che il governo Monti aveva fissato un tetto che era quello pari alla retribuzione annua lorda del primo presidente di sezione di Corte di Cassazione, quindi leggermente superiore ai 300.000 euro per i dirigenti pubblici, e la cosa doveva valere, anche se poi rimase aperta, anche per i manager pubblici delle società, però diverse da quelle che emettono titoli, anche solo obbligazioni pur non essendo quotate. Molti manager pubblici non si sono adeguati a quel tetto di compenso. Per fare alcuni esempi, i segretari generali di Camera e Senato sono tra i 400 e i 500 mila euro lordi. I magistrati, alcuni magistrati sono sicuramente sopra la retribuzione del primo presidente di sezione di Corte di Cassazione, per esempio i componenti della Corte Costituzionale, il cui presidente è ben sopra il mezzo milione di euro l'anno. Tanti manager pubblici di società pubbliche che pure non emettono obbligazioni e non sono quotate sono rimasti con dei multipli rispetto a quegli oltre 300.000 euro l'anno, però il governo Renzi ha posto una asticella significativamente più bassa, perché accogliendo una proposta, tra l'altro ne parlavo anch'io in campagna elettorale un anno fa, che era quella del tetto di retribuzione del capo dello Stato massimo, quindi 238.000 euro lordi l'anno, il governo intende porre quella come cifra invalicabile, però dice questa volta si fa sul serio, punto numero uno, quindi tutti devono scendere sotto i 239.000 euro, tranne quotate e chi emette obbligazioni. Quindi significa molti dirigenti generali, anche del MEF, capi di gabinetto, coloro che dovranno scrivere le norme attuative di questo decreto che è promesso per la settimana prossima, si dovranno autotagliare la retribuzione. Prima proposta, questa è la prima. Poi ce n'è una seconda. Tra le tante ipotesi che giravano, pare proprio confermata quella che il governo in realtà intenda muoversi non solo attraverso un tetto massimo di retribuzione ai dirigenti pubblici apicali, quindi sono quelli apicali di prima fascia, ma anche adottare tagli per i dirigenti di prima e seconda fascia. E qui ci sono ipotesi diverse, ce n'è una che dice dai 90.000 euro in su, e a quel punto il taglio sarebbe proporzionale salendo per scalini, per così dire, fino ad arrivare al 18% su retribuzioni pari a 180.000 euro lorde, partendo da un 6 per i 90.000 euro, 6% in meno, arrivando fino al 18% sui 180.000 euro. E poi c'è una seconda ipotesi che sarebbe ancora più radicale, che inizierebbe ad applicarsi a quel punto dal tetto dei 70.000 euro lordi, e con una progressività ancora più pesante, per così dire. Allora, questo è il secondo blocco di questioni. Poi c'è un terzo blocco di questioni, perché il Presidente del Consiglio ha detto adotteremo anche un criterio più trasparente per l'attribuzione della parte variabile della retribuzione dei dirigenti. Sapete che la parte variabile, quella legata alla produttività, oggi viene in realtà incassata da oltre il 90% dei dirigenti pubblici. Tutti naturalmente raggiungono gli obiettivi di produttività. Il Presidente del Consiglio ha detto: io per i dirigenti nazionali ne vorrei una parametrata all'andamento del PIL. Se il PIL va male, allora non si può dire che il dirigente ha lavorato bene. Però ha ammesso il Presidente del Consiglio. Su questo ci stiamo confrontando anche con Panam per avere altri indicatori. Ma comunque indicatori quantitativi, sia a livello locale per i dirigenti locali che a livello nazionale. Quindi ci sono questi tre blocchi di questioni. Quello che è sicuro è che per quelli apicali si scende di botto nelle retribuzioni, non oltre il capo dello Stato. Poi si scende anche nella fascia intermedia. E poi la terza cosa è un salario di produttività, ma misurato con indicatori veri, come nelle aziende private, non col fatto che se lo portano a casa quasi tutti, perché a quel punto capite che è una presa per i fondelli. Ecco, nel dirvi, chiamate per dirci come la pensate voi, abbiamo scelto qui di avere una voce della rappresentanza del mondo dei dirigenti dello Stato pubblici, ed è quindi con noi il segretario generale di UNADIS, l'Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato, Barbara Casagrande, che ringrazio e le do il buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, buonasera. Allora, dottoressa Casagrande, iniziamo dalla prima questione. Voi come Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato, del porre l'asticella della retribuzione massima da quella del primo presidente di sezione di Corte di Cassazione a quella del capo dello Stato, che ne pensate? Favorevoli o contrari? Ma in assoluto noi siamo contrari a questa campagna denigratoria sulla dirigenza dello Stato. Secondo noi i tagli alle nostre retribuzioni non sono giustificati perché non si dice in modo chiaro chi siamo e cosa facciamo. La cosa principale sarebbe dire ai cittadini chi è un dirigente pubblico e cosa fa, e si scoprirebbe anche in rapporto a quanto prendono i colleghi europei che non siamo affatto strapagati. Quindi per noi questa situazione è veramente paradossale. Ma rispetto con un rapporto OCSE evidenzia che se paragoniamo le nostre retribuzioni al potere d'acquisto rispetto ai colleghi degli altri paesi, noi siamo in piena media europea. Ma le dirò di più, professor Giannini. No, Giannino e basta, io non sono professore. La cosa che a noi veramente lascia sconcertati. Però aspetti, allora noi andiamo blocco per blocco, perché su questo blocco noi abbiamo. Allora, su questo tema degli andamenti comparati della retribuzione, noi abbiamo più volte qua pubblicato, in occasione dei suoi diversi articoli dedicati branca per branca a quelle degli esteri e così via, il professor Roberto Perotti, che invece, numeri alla mano, Francia, Germania e Gran Bretagna, dimostrava l'esatto opposto di quello che lei diceva. Cioè, si andava da branca della pubblica amministrazione, in particolare gli esteri, dove addirittura c'erano dei multipli rispetto agli ambasciatori italiani, rispetto a quelli tedeschi, francesi e britannici, multipli davvero, cioè a volte con retribuzione. Sì, ma bisogna vedere, ecco, che voci sono, perché sono delle indennità diverse. Sappiamo che quando fu istituita una commissione, doveva presiedere Giovannini, che poi è stato ministro, bravo, presidente dell'Istat, non si riuscì a venirne a capo proprio per la differenza dei criteri comparativi. Va bene. Cioè, il collega di un altro paese ha uno stipendio più basso, però ha una serie di benefici. D'accordo, che però ammettiamolo che dal punto di vista tecnico-accademico c'è chi come Roberto Perotti dice che quello che lei ha detto, in realtà, andando a vedere il confronto con Francia e Gran Bretagna, lo dico a chi è in ascolto, gli articoli del professor Perotti sono pubblicati su lavoce.info, quindi potete controllare, non è vero. Al di là di questo, che lei dice... Posso dire una cosa? Sì. Allora, qual è il vero problema in Italia? Sì. Le tasse troppo alte, questo non mi deve... il 41% di imposizione. Non mi deve convincere di questo, però... Ecco, guardi, veramente sfondo con lei, lo so, una porta aperta, esatto. Ma noi dirigenti pubblici le paghiamo per carità, è giusto, come dovrebbero tutti i cittadini. Quando alla mia retribuzione lorda si toglie un 41%, a quella di un collega tedesco, francese o inglese si toglie un 18%, beh, io anche questo inviterei tutti a fare una valutazione. Questo cioè, vale per tutti coloro che hanno il reddito che li fa entrare in quella aliquota, però non solo per voi dirigenti pubblici. No, ma certo, comunque, certo, torniamo... Però diciamolo, compariamo, guardi, il dato, no? Io lo ripeto da mani a sera. Ma l'idea che però nel mondo della dirigenza pubblica la retribuzione del capo dello Stato debba essere un non plus ultra, ecco, per così dire. Che cosa c'è di sbagliato in questo, secondo lei? Non è un concetto sbagliato in assoluto. Bisogna sempre parametrare le retribuzioni a quello che si fa. Noi comunque su questa materia abbiamo una riserva assoluta di contratto, cioè questa materia è soggetta alla contrattazione collettiva. Quindi quello che dovrebbe anche essere chiaro è che una volta che si sono stipulati dei contratti collettivi e le persone sanno che hanno una certa retribuzione fissa, una certa retribuzione variabile, collegata in parte alla posizione, quindi all'ufficio, all'importanza dell'ufficio che si dirige, in parte ai risultati che si conseguono. Poi variare queste condizioni in corso d'opera, beh, non è corretto, non è un qualcosa, cioè pacta sunt servanda, ci sono delle prestazioni e controprestazioni, c'è un rapporto sinallagmatico che a noi dispiace che venga scardinato in questo modo. Comunque siamo servitori dello Stato, la legge al primo posto, c'è un momento di fatica per il Paese, facciamo anche noi dei sacrifici, se la legge prevede che si debbano abbassare dei tetti, sia fatto. Non dimentichiamo che la norma, quando è stata introdotta 4 anni fa, dava un periodo transitorio, cioè diceva si applica dai prossimi contratti, non da quelli in essere, quindi forse siamo arrivati rispetto al 2010 al momento del rinnovo di una serie di contratti, no? Lo dicevamo a proposito di Moretti, delle ferrovie, che quella soglia di retribuzione sono 4 anni che doveva rientrare nei 311.000 euro del primo cassazionista, evidentemente è adesso che diventa attuativo il provvedimento. Allora, ci fermiamo un secondo qua perché abbiamo 60 secondi di informazioni sulle strade e poi torniamo con Barbara Casagrande, segretario generale dell'Unione Nazionale Dirigenti dello Stato. Stiamo parlando di queste nuove limitazioni, sia al massimo, per il momento stiamo parlando di questo, dirigenti apicali, retribuzione del capo dello Stato, e poi a scendere anche per i rami. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta a 16:47 primi e 20 secondi. Io devo dire a Barbara Casagrande, segretario generale dell'Unione Nazionale Dirigenti dello Stato, che ovviamente tra i nostri ascoltatori sentir dire ma noi facciamo cose importantissime, e non si discute questo, però sentir dire che questo può giustificare retribuzioni maggiori del capo dello Stato, agli ascoltatori io mi risparmio i lunghi messaggi che arrivano eccetera eccetera, però sono univocamente orientati a dire non è un argomento, perché allora bisognerebbe dire che il capo dello Stato guadagna troppo poco. Però detto questo, sentiamo qualche telefonata, iniziamo con Matteo che ci chiama da Cremona. Prego Matteo. Pronto? Sì, ci dica Matteo. Sì, buongiorno. Buongiorno. No, io volevo dire alla signora che sta parlando, cioè che dobbiamo ricordare una cosa, è che l'amministrazione pubblica è disastrata, è un disastro totale, cioè loro, oltre a prendere degli stipendi completamente fuori misura, voglio dire, hanno portato dei risultati scadenti, bassissimi, per cui dovrebbero fare un mea culpa gigantesco e ridurselo da soli, senza neanche bisogno che ci sia una legge. Deve essere un minimo di dignità con la situazione che c'è nel paese. Allora, Matteo, diciamo da voce a un po' di ascoltatori, sentiamo Paola da Roma e poi torniamo a Barbara Casagrande. Prego Paola. Buonasera Giannine, io volevo essere assolutamente d'accordo col capo del Consiglio Renzi in merito a questi tagli. Ai dirigenti pubblici e quant'altro, ma volevo sottolineare anche come faceva Matteo quanto prendono gli stessi parlamentari, che mi sembra davvero eccessivo, al di là di quanto possa rispondere chiunque di esso dicendo che sono nei parametri eccetera, mi sembra davvero eccessivo rispetto a un qualunque lavoratore normale. Perfetto, italiano. Grazie Paola. Barbara Casagrande, andiamo alla seconda ordine di riflessioni. Ma noi comunque subiamo questa campagna denigratoria. Me ne rendo conto. Continuiamo a dire che non si capisce, che siamo persone laureate, specializzate, abbiamo vinto dei concorsi. Perfettamente. Però veramente siamo al servizio della nazione, ci si rende conto che gestiamo soldi pubblici, siamo responsabili delle risorse. Lo so, ma non credo che debba spiegarle io. Tra l'altro che la maggior parte delle agli italiani siamo... il 50,8% di PIL, a questo si è fermata la spesa pubblica nel 2013, dico fermata con un po' di ironia ovviamente, però diciamo in termini di efficienza di quello che avviene non è che sia colpa individualmente solo vostra, però hanno l'idea che in vasti settori della pubblica amministrazione centrale, ma anche periferica, insomma, non ci sia ciò che giustifica una tale pressione fiscale con cui si finanzia tutto questo. Ecco, questo è ovvio, che questa è una delle ragioni di fondo per cui poi c'è questo stato d'animo, per così dire. Sì, ma questo sperpero non è tutto per la anzi in minima parte per la retribuzione dei dirigenti, e non è uno sperpero. Voglio dire, noi siamo delle persone che, parametrate a quello che facciamo anche i colleghi del privato, abbiamo delle retribuzioni assolutamente, direi, dignitose, ma forse anche davvero sottostimate rispetto a quello che la pubblica amministrazione debba essere efficientata. Noi lo sappiamo, abbiamo fatto delle proposte, abbiamo indicato quali sono gli uffici che sono mere duplicazioni di altri perché fossero tagliati. Lo sa perché non li tagliano? Perché è sull'ufficio che è una mera duplicazione. Il politico mette l'amico dell'amico e quindi fa comodo che ci sia. Il dirigente serio, preparato, che ha vinto il concorso e che si assume le responsabilità, sta sull'ufficio gestionale che deve andare avanti. Allora creiamo duplicazioni inutili, sprechiamo, poi però dobbiamo tagliare i soldi a chi ha vinto il concorso e a chi prende una retribuzione che davvero, per le responsabilità civili, penali, amministrative, contabili che ci assumiamo tutti i giorni, e disciplinari, perché possiamo anche essere licenziati, sono assolutamente però lo sa meglio di me che le sanzioni disciplinari ai dirigenti pubblici sono rarissime, lo sa meglio di me, non è che me lo deve far dire perché voglio fare il cattivo, ho capito, ma no, ma non sto dicendo che me le auguro, perché ovviamente ci mancherebbe altro, però sa quante volte ho citato la percentuale di apertura di fascicoli di sanzioni disciplinari a magistrati, a CSM, e quante volte poi si arriva davvero a un provvedimento? Ecco, sugli 8.000, quasi 8.000 magistrati, siamo con più di 500 procedimenti disciplinari, stiamo vedendo negli ultimi anni quante sono state le sanzioni, non più di 4 l'anno. Ecco, è ovvio che nel settore privato sono di più, è inutile far finta di niente. Però arriviamo a un altro punto, quello delle retribuzioni di produttività. Allora, anche lì, è possibile mai che quello che in un'azienda privata, cioè i premi, non li portano a casa il 90% dei dirigenti? Com'è che nel settore pubblico li porta a casa il 90% dei dirigenti? Ci sarà un problema o no, secondo lei, Casagrande? Allora, intanto UNADIS, la nostra Unione Nazionale Dirigenti dello Stato sulla valutazione, è stata la prima che da 20 anni ha detto vogliamo essere valutati perché non siamo tutti uguali, vogliamo che ci sia una distinzione meritocratica di quello che facciamo, e finalmente siamo riusciti in questo periodo, in questi 20 anni, ad avere dei sistemi di valutazione dell'attività che viene svolta, che ci sono in tutti i ministeri, sono rigorosissimi nelle agenzie fiscali, ci sono in presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi noi siamo molto contenti di questo. Naturalmente poi a questi sistemi di valutazione si collega la retribuzione di risultato. Lei mi dice perché tutti prendono questa retribuzione? Perché è tutto un sistema collegato all'obiettivo operativo che viene dato al dirigente. E quindi secondo me l'idea di cambiargli questi obiettivi operativi in maniera da verificare davvero con indicatori numerici, come si fa nelle aziende, per cui alla fine c'è una fisiologia per il quale ha senso che sia tra il 25 e al massimo il 40% che realizza chi pienamente, che in buona percentuale è l'obiettivo, ma se lo realizzano più del 90% vuol dire che è un obiettivo finto o no? Ma non lo realizza più del 90%, noi abbiamo un equivoco su questo, perché sì, quello che succede è questo, che gli obiettivi, la realizzazione dell'obiettivo poi ha un punteggio che può essere 100, 98, 90, 95, e la retribuzione collegata al raggiungimento o meno di questo obiettivo è non oltre il 20% dell'intera retribuzione del dirigente, quindi è una parte è collegata a questo. Che cosa abbiamo sempre detto? Quello che per noi non è accettabile è che a prioristicamente si dica quello che lei ha appena affermato, cioè che non più del 45% possa raggiungere l'obiettivo. Perché? Perché è come dire che in una classe devo avere per forza qualcuno che è somaro, che non ha studiato. Noi abbiamo dei sistemi rigorosi, degli organismi di valutazione che sono esterni, sono enti terzi e ci valutano. È poco sfidante l'obiettivo che ci viene dato? Beh, sarà un problema della politica che vuole, che fa una programmazione strategica e dà un obiettivo, quindi di priorità politica, un obiettivo strategico, un obiettivo operativo non sfidante. Il sistema è rigoroso, il 75% del raggiungimento dell'obiettivo è legato a numeri, a dati, a parametri, alla verifica per esempio di ispezioni che vengono fatte nel Ministero del Lavoro, piuttosto che per la sicurezza sui cantieri e sulle dighe. Poi c'è un 25% che è la capacità manageriale. Guardi, le faccio solo un esempio, negli incentivi alla dirigenza dell'Agenzia delle Entrate si premia con obiettivi diversamente competenze territoriali, sia l'incasso da lotta all'evasione, e sono d'accordo, sia il contenzioso che si apre col contribuente. E qui non sono d'accordo, ma secondo me è sbagliatissimo. Chi genera contenzioso, e più di una volta su due lo Stato perde, solo che il contribuente impazzisce ulteriormente, dovrebbe essere secondo me non premiato, perché il contenzioso va disincentivato. Quindi la mia opinione è che qui bisogna cambiare. Comunque, io ho dato la parola a Barbara Casagrande, al segretario generale dell'UNADIS. Devo dire la verità, per me se il capo dell'FBI guadagna l'equivalente di 180.000, c'è qualcosa che non funziona. Se in Italia pensiamo che nel settore pubblico non si può toccare. Comunque continuate su Radio 24, grazie a Barbara Casagrande, appuntamento con me a domani.